Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Bergamo e sono in un luogo molto molto particolare e affascinante, l'antica biblioteca Angelo Mai, la biblioteca storica della città, che ha dei libri molto importanti, molto antichi. Grazie alla direttrice che ci offre questa opportunità, ne sfoglio uno con voi. Si tratta di una rarità assoluta, si tratta del taccuino di Giovannino de Grassi, un piccolo libro in fogli di pergamena che in realtà è un quaderno di bottega, cioè è una delle uniche oggetti che noi conosciamo provenienti dalle grandi botteghe degli artisti del Medioevo e del Rinascimento. Che cos'erano questi taccuini? Erano semplicemente dei prontuari, dei campionari di figure da far vedere ai committenti quando si voleva, per esempio, decorare una sala di un castello con degli animali, oppure con delle bordure, oppure quando si voleva fare un codice miniato, gli si facevano vedere delle lettere miniate che sono presenti in questo taccuino come modelli poi da riprodurre nei libri miniati più importanti e più sontuosi. Se ne sono conservati veramente pochissimi al mondo di questi taccuini, e questo è molto particolare perché, per esempio, ha tutto uno zoo di animali che Giovannino de Grassi, che era un importantissimo architetto e pittore attivo a Milano alla fine del 1300, infatti il taccuino è datato alla fine del 1300, ecco, questi animali sono stati ripresi dal vero. Noi capiamo perfettamente che lui, nei serragli che i Visconti avevano intorno a Milano, poteva vedere anche i leopardi, anche animali esotici che naturalmente non si potevano vedere in Lombardia, se non in quel caso lì. Oppure ci sono tutte le figure di dame, i vestiti di queste dame che poi sono finite nelle miniature, oppure ci sono appunto le bordure da mettere nei muri, nei dettagli, e alla fine c'è una delle cose più curiose che rende famoso il taccuino, cioè il famoso alfabeto. È un alfabeto stranissimo, gotico, dove le lettere sono tutte istoriate con dentro delle scenette. Si va dalle scene più sacre, per esempio l'Annunciazione nella M, tipica lettera che si usa per Maria, a scene anche triviali dove si vedono persone che defecano dall'alto della lettera in testa al poveraccio che si trova sotto. Quindi si mettono in evidenza le cosiddette drollerie, cioè queste cose divertenti che i libri antichi e il taccuino di Giovannino de Grassi offrono in grande quantità e copia.